Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge Caro Michele di Natalia Ginzburg. Agosto 1971. Caro Filippo, ieri ti ho visto in Piazza di Spagna. Non credo che tu mi hai visto. Ero con Angelica e Flora. Tu eri solo. Angelica ti ha trovato invecchiato. Io non so se ti ho trovato invecchiato. Avevi la giacca sulle spalle, il tuo solito gesto di stropicciarti la fronte mentre cammini. Sei entrato da Babington. Mi sembra sommamente strano di vederti passare per strada e non chiamarti. Ma in verità non avremmo nulla di speciale da dire. A me è indifferente quello che ti succede. E certo a te sarà indifferente quello che succede a me. Quello che a te succede mi è indifferente perché sono infelice. Quello che succede a me ti è indifferente perché sei felice. Comunque, tu e io oggi siamo due strani. So che sei venuto al cimitero. Io non ero al cimitero, me l'ha detto Viola che eri venuto. So che lei ha detto che desideravi di venire a trovarmi. Finora non sei venuto. Ma io non ho voglia di vederti. In genere non ho voglia di vedere nessuno, salvo le mie figlie, con le loro inevitabili propaggini familiari, mia cognata Matilde e il nostro amico Osvaldo Ventura. Queste persone io non mi accorgo di desiderarne la compagnia, ma se non le vedo per qualche giorno ne sento la mancanza. Può darsi che se tu venissi a trovarmi, io immediatamente mi abituerei a te e non voglio abituarmi a una presenza che per forza di cose non sarebbe costante. Quella rosea donnetta che tu hai sposato non ti consentirebbe di venire spesso. E io non mi accontenterei di una tua semplice, formale, unica visita di condoglianza. Non mi servirebbe a niente. Siccome è possibile che tu sia diventato in questo tempo che non ci siamo visti totalmente stupido, ti chiarisco che nelle parole rosea donnetta non c'è nessuna specie di acrimonia. Se avevo verso di te gelosia o acrimonia, le circostanze della mia vita ne hanno fatto strage. Mi capita ogni tanto di pensare a te. Stamattina mi sono ricordata improvvisamente di un giorno che io e te siamo andati a Courmayeur con la tua macchina a trovare Michele, che era là in campeggio. Michele aveva allora forse 12 anni. Mi ricordo quando l'abbiamo visto davanti alla sua tenda, a torso nudo e con i piedi scalzi negli scarponi. Io mi sono rallegrata di vederlo così bene in salute, abbronzato, tempestato di lentiggini, le sue solite più mille altre. In città certe volte era tanto pallido, usciva poco, suo padre non gli diceva di uscire. Siamo andati in giro con la macchina e a fare merenda in uno chalet. Tu eri di solito nervoso con Michele, non lo amavi, lui non ti amava. Tu dicevi che era un ragazzino viziato, presuntuoso, capriccioso. Lui ti trovava antipatico. Non lo diceva, ma era chiaro che lo pensava. Però quel giorno tutto è stato bellissimo, calmo, senza una sola parola cattiva fra voi due. Siamo entrati in un negozio dove vendevano oggetti turistici e cartoline. Tu gli hai comperato un cappello verde con la coda di camoscio. Era felice. Se l'è cacciato a sghimbescio sui riccioli. Sarà anche stato viziato. Ma poteva essere felice con una cosa da niente. Nella macchina si è messo a cantare. Era una canzone che cantava sempre suo padre. Mi irritava di solito perché mi ricordava suo padre, con il quale in quel periodo avevo acrimonie. Ma quel giorno ero contenta e tutte le mie acrimonie mi sembravano leggere, dolci, respirabili. La canzone diceva: non avemo ni canones, ni tanks, ni aviones, oi Carmela. Anche tu sapevi quella canzone e l'hai continuata. El terror de los fascistas, rumba la rumba, la rumba la. Ti sembrerò stupida, ma ti ho scritto questa lettera per ringraziarti di aver cantato quel giorno con Michele e anche di avergli comprato il cappello con la coda di camoscio che ha portato ancora per 2 o 3 anni. Vorrei anche pregarti di un favore. Se tu sai tutte le parole di questa canzone, trascrivimele e mandamele per posta. Ti sembrerà strano, ma ci si attacca a desideri minimi e strani, quando in verità non si desidera niente. Adriana. Ada con Elisabetta era partita per Londra. Osvaldo sarebbe andato a prenderla i primi di settembre. Adesso aveva ancora da fare al suo botteghino. Era il 20 di agosto. Angelica doveva partire per un giro in macchina con Oreste, la bambina e Bettoia. Con Adriana rimaneva Viola. Le gemelle facevano un campeggio nelle Dolomiti. Avevano accompagnato Ada e Elisabetta all'aeroporto Angelica e Viola con la macchina di Viola. Ora stavano ritornando indietro. Osvaldo le seguiva con la sua 500. Al mattino Angelica e Viola erano andate con Lillino da un notaio e avevano firmato l'atto di vendita della torre. La torre l'aveva comprata il Pellicano. Dal notaio lui non era comparso, aveva mandato il suo legale. Lui era sempre nel Chianti. Aveva malattie varie, diceva Osvaldo, del tutto immaginarie ma ugualmente dolorose. Non lasciava più quella sua villa nel Chianti. Della sua casa editrice si occupava Ada. Se ne occupava senza prendere un soldo, ma Ada se ne infischiava dei soldi, disse Angelica a Viola. Era seduta in macchina accanto a Viola, che guidava fissando le strade con il suo profilo immobile e grazioso. Aveva, nonostante il gran caldo, i capelli profumati e ravviati, a lungo spazzolati e molto lucidi. Aveva un abito di lino bianco, ben stirato e fresco. Angelica aveva dei jeans e una camicetta sgualcita. Aveva passato il pomeriggio a fare valigie. Partiva l'indomani. Ada se ne infischiava dei soldi, disse Angelica. Se ne infischiava avendone d'altronde molti. Quanto al Pellicano, anche lui dei soldi se ne infischiava avendone d'altronde moltissimi. Aveva comperato la torre, non si capiva bene perché. Certo, non ci avrebbe mai messo piede. Non l'aveva nemmeno vista. Ada doveva averlo persuaso che la torre era un buon investimento. Ada progettava di trasformare quella torre in qualcos'altro. Non si sapeva in cosa, forse in un ristorante o forse in una casa di riposo. Bel riposo, disse Viola. Era faticosissimo arrivare alla torre. Tu non l'hai vista, io invece l'ho vista, disse. Ma se ti sto dicendo che Ada la trasformerà, disse Angelica, ci farà una strada, una piscina, ancora non so cos'altro. Quello che li univa quei due, disse Angelica, quei due, ossia Ada e il Pellicano, era una certa curiosità per il denaro e per le trasformazioni che il denaro poteva compiere sulle cose e una profonda indifferenza nello spenderlo e nel possederlo. D'altronde, possedendone già una grossa porzione. Quello che li rendeva diversi era che Ada non riusciva a immaginare se stessa povera e non ci si provava nemmeno, e invece il Pellicano passava la sua vita a immaginare se stesso povero, con brividi malati lungo la schiena e sussulti di orrore e desiderio. «Così è finita la nostra torre», disse Viola. «Non è mai stata nostra», disse Angelica. «Non era mica tanto bella», disse Viola. «Lo immagino», disse Angelica. Di fuori era un mucchio di sassi con una finestra in alto. La forma era vagamente quella di una torre, ma qualunque catasta di sassi può chiamarsi una torre, se gli si vuole dare questo nome. Di dentro c'era odore di merda e c'erano molte merde sparse. Io quello che ricordo è soprattutto la merda. Ma lui non sente gli odori, disse Angelica. Lui chi? Il pellicano. Ha quel naso, ma dice che non sente mai nessuna specie di odore. Comunque non si capisce perché l'ha comprata. E anche non si capisce perché nostro padre l'aveva comprata. Se Ada ha detto che era un buon investimento, non c'è dubbio che ha ragione Ada. E allora non si capisce perché noi l'abbiamo venduta, disse Viola. Perché l'ha consigliato Lillino. E se ci avesse dato un consiglio cattivo? Pazienza. Io non sapevo cosa farmene di quella torre di merda, disse Viola. Però è vero che l'aveva comprata nostro padre. Mi dispiace di averla chiamata torre di merda. L'ho detto senza pensarci. Ma comunque ormai non si ritorna indietro. Con la torre noi abbiamo chiuso. Ammesso che avessimo mai aperto, disse Angelica. Mi dà l'angoscia rimanere sola con la mamma in quella casa solitaria, disse Viola. Non mi piacciono i posti solitari. Anche per questo non mi piaceva la torre. C'è Matilde, disse Angelica. Matilde non mi toglie nemmeno un'oncia di angoscia. C'è il telefono, non ti ricordi che adesso c'è il telefono? Da una settimana, per merito di Ada. E poi ci sarà anche il cane di Ada. Osvaldo lo porta là. Io non posso soffrire i cani, disse Viola. Mi toccherà occuparmi del cane, dei conigli e dell'agnello delle gemelle, che bisogna allattarlo con la bottiglia. Almeno l'agnello potevano portarselo dietro. Nelle Dolomiti? Ho paura che sono incinta, disse Viola. Ho un forte ritardo. Tanto meglio, dici sempre che vuoi un bambino. Ho paura perché sarò in quella casa isolata, senza un medico a portata di mano. Puoi telefonare al dottor Bovo, verrà subito. E poi cosa ci vuoi fare? La mamma non poteva rimanere lì sola. Matilde ha il sonno profondo, non la svegliano nemmeno i terremoti. Cloti è andata in ferie. Io dovevo partire per qualche giorno, l'ho promesso alla bambina. Ma tornerò presto e te ne andrai via tu. Ah, lo so, non si discute. Ma io voglio solo dire che ho l'angoscia. Voglio dirlo, non so perché dovrei tenermelo dentro. Elio è partito per l'Olanda ieri. Era disperato di andare senza di me. Poteva rimanere con te? No, perché aveva voglia di vedere l'Olanda. Aveva bisogno di distrarsi. Povero Elio, la morte di Michele l'ha sconvolto. Si fa rimorso di non essere andato a Leeds quando Michele si è sposato. Dice che avrebbe potuto dargli dei consigli utili. Di che tipo? Non lo so. Dei consigli. Elio è molto umano. Michele l'hanno ammazzato. Mi domando che specie di umani consigli potevano proteggerlo dai fascisti che lo ammazzavano. Se rimaneva tranquillo a Leeds, non lo ammazzavano. Può darsi che trovasse difficile rimanere tranquillo. L'ultima volta che io l'ho visto era a Largo Argentina. Usciva da quella rosticceria di Largo Argentina. Mi ha detto salve e se n'è andato subito. Gli ho chiesto cosa aveva comprato. Ha detto un pollo arrosto. Sono queste le ultime parole che mi ha detto. Che povere parole. L'ho visto andare via con la sua sacca di carta. Un estraneo. Erano davanti alla casa della madre. Viola posteggiò la macchina presso i due abeti nani, estenuati e afflosciati dal caldo. Angelica tirò giù le valigie dal portabagagli. «Ma quanta roba ti sei portata dietro?» disse. «Un pollo arrosto», disse Viola. Le sue ultime parole. Sento ancora la sua voce che le dice. «Quanto bene ci volevamo da piccoli. Giocavamo con le bambole a mamma e figlia. Io ero la mamma e lui la figlia. Lui voleva essere una bambina, voleva essere uguale a me. Ma dopo non gli andavo più, mi disprezzava, diceva che ero una borghese. Ma io non so come altro essere. Dopo lui voleva bene solo a te. Io ero gelosissima di te. Tu certo ti ricordi tante cose di lui, lo vedevi sempre, eri amica dei suoi amici. Io ne sapevo soltanto i nomi. Gianni, Anselmo, Oliviero, Osvaldo. Riguardo a Osvaldo mi dispiaceva sempre tanto che fossero così amici. Era un'amicizia di omosessuali. Inutile volerselo nascondere. Si capiva al solo vederli. Me l'ha detto anche Elio, che li ha visti insieme. Io ancora non so darmi pace che Michele fosse diventato un omosessuale. Michele direbbe che sono conformista. Mi dà angoscia di vedere Osvaldo. È gentile, è tutto quello che vuoi, ma a me dà angoscia vederlo. Lo vedrò spesso perché viene spesso qui. Cosa venga a fare non si sa. Eccolo, sta arrivando. Riconosco il rumore della 500. Ma la mamma fa piacere. O non ci pensa, oppure ci pensa e si è abituata. Probabilmente ci si abitua a tutto. Ci si abitua a tutto quando non rimane più niente, disse Angelica. Leeds, 9 settembre 1971. Cara Angelica, sono a Leeds da ieri mattina. Ho dormito in una pensione che si chiama Hong Kong. Non puoi immaginare niente di più triste della pensione Hong Kong a Leeds. Ho lasciato Ada e Elisabetta a Londra perché era inutile che venissero qui. Quel ragazzo che ti aveva scritto e che si chiamava Ermanno Giustiniani, l'ho rintracciato. È ancora lì, all'indirizzo che aveva dato a te. È un simpatico ragazzo, con un viso aguzzo e piuttosto pallido, e un'aria da malese, e difatti mi ha detto che sua madre era di origine asiatica. Mi ha detto che Aileen e i figli sono ritornati in America. Non sa l'indirizzo. Di Aileen mi ha detto che era veramente una donna di grande intelligenza, ma alcolizzata. Michele l'ha sposata proponendosi di salvarla dall'alcol. Questo gli rassomiglia, perché lui amava essere chiamato a soccorrere il prossimo, solo che la sua generosità era infeconda, perché non aveva durata. Il loro matrimonio è andato in polvere dopo 8 giorni. Per 8 giorni sembravano felici. Lui non li ha conosciuti in quegli 8 giorni, li ha conosciuti dopo, quando già era tutto praticamente finito. Ma gli hanno raccontato dei conoscenti che per 8 giorni Aileen aveva smesso di bere e sembrava un'altra persona. Ermanno mi ha accompagnato alla casa di Nelson Road, dove abitavano Aileen e Michele. Sulla casa c'è scritto For Sale, cioè l'hanno messa in vendita. Così mi sono rivolto all'agenzia e ho potuto visitarla. Era una piccola casa inglese a 3 piani, una stanza per piano, ammobiliata con sordidi mobili finto Liberty. Sono entrata in tutte le stanze. In cucina c'era ancora un grembiale che poteva essere stato di Aileen, con disegni di pomodori e carote, e un impermeabile, che anche poteva essere stato di Aileen, di satin nero, con uno strappo nella manica. Ma sono tutte ipotesi. In una stanza c'erano alle pareti figure di Biancaneve e i 7 nani, e in terra una ciotola con del latte andato a male, evidentemente lasciato lì da un gatto. Se ti descrivo così accuratamente queste cose, è perché penso che ti è caro saperle. In Michele non ho trovato nulla, salvo una camiciola di lana usata come cencio da spolvero e appesa a una scopa. E mi è sembrata una camiciola che lui un tempo si era comperata per l'inverno. E infatti ho guardato e c'era la targa di Anticoli, quel negozio in via della Vite. Dopo un attimo di incertezza l'ho lasciata dov'era. Io credo che non serve a niente conservare gli oggetti dei morti quando sono stati maneggiati da ignoti e si è svaporata la loro identità. La visita a questa casa mi ha lasciato immerso in una malinconia sconfinata. Sono qui, nella stanza della pensione, e vedo dalla finestra la città di Leeds, una delle ultime città dove ha camminato Michele. da questo simpatico ragazzo, Ermanno Giustiniani, con il quale cenerò stasera, non riesco a sapere molto su Michele, perché lui l'ha visto poco, o lo ricorda poco, o forse lo rattrista di parlarne a lungo con me. È un ragazzo. I ragazzi oggi non hanno memoria e soprattutto non la coltivano. E tu sai che anche Michele non aveva memoria. O meglio, non si piegava mai a respirarla e coltivarla. A coltivare le memorie di tua madre e io. Tu per temperamento, io e forse tua madre per temperamento, e perché nella nostra vita presente non c'è nulla che valga i luoghi e gli attimi incontrati lungo il percorso. Mentre io li vivevo o li guardavo, quegli attimi o quei luoghi, essi avevano uno straordinario splendore, ma perché io sapevo che mi sarei curvato a ricordarli. Mi ha sempre addolorato profondamente che Michele non volesse o non potesse conoscere questo splendore e andasse avanti senza mai voltare la testa indietro. Credo però che lui, senza saperlo, contemplasse questo splendore dentro di me. E tante volte ho pensato che forse, mentre moriva, egli ha in un lampo conosciuto e percorso tutte le strade della memoria. E questo pensiero è per me consolante, perché ci si consola con nulla quando non abbiamo più nulla. E perfino aver visto in quella cucina quella maglietta cenciosa che non ho raccolto è stata una strana, gelida, desolata consolazione per me. Osvaldo. Viva la Quinta Brigada, viva la Quinta Brigada, che nos cubrirà de gloria, ai Carmela, ai Carmela. Que nos cubrirá de gloria, ay Carmela, ay Carmela. Luchamos contra los moros, luchamos contra los moros, mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la la. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la la. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la la. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba la la. En los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba la la. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. Tenemos días martes, rumba la rumba la rumba la la. Y tenemos días martes, rumba la rumba la rumba la la. Con los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela. Con los tanques y granadas, ay Carmela.